Capitolo 7. A partire da quella notte, e per molte notti ancora, Malinalli non riuscì a chiudere occhio. Era tormentato dall'immagine di una carneficina che non aveva vissuto. Fin da bambina aveva sviluppato una tecnica per addormentarsi che consisteva nel chiudere gli occhi e dipingere un codice utilizzando solo l'immaginazione. Quando nella sua mente cominciavano ad apparire volti, figure, glifi e segni, sapeva di trovarsi ormai nel mondo dei sogni, in un universo fantastico che apparteneva solo a lei, in un luogo in cui poteva incontrare i suoi pensieri più luminosi come quelli più spaventosi. Questa sua abilità si era però trasformata in un tormento da quando aveva sentito raccontare ciò che era accaduto a Tenochtitlan durante la sua assenza. Non appena chiudeva gli occhi, le si presentavano alla mente immagini di teste, gambe, braccia, nasi e orecchie che volavano da tutte le parti. Al massacro del Tempio Maggiore non aveva assistito, ma c'era il precedente della strage di Cholula. Per questo il suo cervello poteva riprodurre con assoluta chiarezza il rumore della carne lacerata, le grida e i lamenti, le detonazioni degli archibugi, le corse disperate, il tintinnio dei campanellini da caviglia, mentre i piedi fuggivano cercando invano di arrampicarsi sui muri. Quando arrivava a questo punto, Malinalli sentiva un brivido trapassarle il centro esatto del corpo e riapriva gli occhi. E tutto ricominciava da capo, più e più volte, finché esausta non cedeva al sonno. E non è tutto. Un sogno ricorrente le imprigionava la mente. All'inizio dell'incubo Malinalli era una farfalla che volava sulle ali del vento e dall'alto guardava i nobili e i guerrieri Mexica ballare la danza rituale. Li vedeva abbandonarsi al ritmo, concentrarsi ed entrare in uno stato di esaltazione religiosa. Dal centro del cerchio dei ballerini si levava allora una colonna di luce che univa il cielo alla terra e un alone giallo illuminava i presenti, facendo risplendere i corpi vestiti di abiti sontuosi, di belle piume e di pelli pregiate. Ma all'improvviso sulla folla cadeva una pioggia di pallottole e il cuore di ballerini e spettatori, trafitto e sanguinante, si trasformava in pietra e saliva al cielo. Nell'incubo, Malinalli diceva, anche i cuori di pietra volano. Mentre pronunciava queste parole, un'immagine affascinante e spaventosa a un tempo attirava il suo sguardo. Un idolo di pietra, raffigurante il corpo mutilato della dea Coyoacli, sorella di Huitzilopochtli, che era stata smembrata per aver cercato di impedire la nascita di suo fratello dal ventre di Coatlicue, prendeva vita, usciva dall'immobilità e cercava di rimettere insieme i suoi arti smembrati. Gambe e braccia, prima staccati, si univano di nuovo al tronco. La pietra si trasformava in carne. L'idolo non era più una semplice scultura di pietra, si ricopriva di carne viva. Allora Malinalli diceva: quando la pietra si fa carne, il cuore diventa pietra. Quasi attirati da quelle parole, alcuni cuori volanti di pietra le si avvicinarono ed esplosero in mille pezzi, sputando fiotti di sangue. Altri invece precipitarono sulla terra come grandine e colpirono Montezuma, seppellendolo. Intrise di sangue, le ali di farfalla di Malinalli diventavano pesanti, non le reggevano più in volo e lei cadeva, gridando. Poi anche Malinalli era una danzatrice e cercava di sottrarsi ai colpi d'arma da fuoco e alla pioggia di cuori di pietra scappando, calpestando corpi smembrati e arrampicandosi sulle pareti. Ma il sangue che scorreva dappertutto la faceva scivolare, le impediva di mettersi in salvo, mani e piedi perdevano la presa e lei cadeva. Malinalli avrebbe voluto gridare, chiedere aiuto al cielo, ma la voce non le usciva dalla gola. Voltandosi vedeva la pioggia di cuori di pietra seppellire Montezuma e poi una tempesta di spade le cadeva sul petto e le trafiggeva il cuore, da cui usciva un fiotto di piume preziose insanguinate. Con la respirazione agitata e le lacrime che le rigavano le guance, Malinalli riapriva gli occhi. Ma anche questo era inutile, perché l'incubo andava avanti. Anche di giorno Malinalli camminava e non camminava, vedeva e non vedeva, parlava e non parlava, c'era e non c'era. Viveva le drammatiche conseguenze della carneficina senza vederle, senza udirle, senza registrarle nella memoria. Nella sua mente non c'era più spazio per il presente, perché le immagini del passato, immagini d'orrore, l'occupavano tutta. Ritornò a Tenochtitlan come in sogno. Cortesi e i suoi si avvicinarono alla città attraverso il lago di Texcoco. Le canoe scivolarono dolcemente sull'acqua, ma quella volta ad accoglierli non ci fu alcuna cerimonia di benvenuto. La schiera dei nobili non andò loro incontro perché i nobili di Tenochtitlan erano tutti morti. Dal massacro del Tempio Maggiore era trascorso un mese e l'aria era ancora pregna dell'odore della morte. A mano che si addentravano nella città, il cuore di Malinalli batteva sempre più rapido, facendo circolare il dolore nelle sue vene. Per sottrarsi alla sofferenza, chiudeva gli occhi, cercando di non pensare a niente. Non voleva vedere i sogni del disastro. Non appena arrivò al palazzo di Axayacatl, Cortés convocò subito Pedro de Alvarado per chiedergli spiegazioni sull'accaduto. Gli aveva affidato il comando perché era il più adatto a trattare con le popolazioni locali. I Tenochca, infatti, lo consideravano un'incarnazione di Tonatiuh, divinità solare, e lo chiamavano sempre il sole. Non aveva pensato che quella responsabilità potesse essere superiore alle sue forze, e invece era stata proprio la paura di perdere il controllo della situazione e innescare il massacro. Fin dal primo momento in cui gli spagnoli avevano messo piede in città, in effetti, gli orgogliosi abitanti di Tenochtitlan li avevano guardati con diffidenza. La nobiltà locale non aveva compreso le scelte dell'imperatore. Per tutto il suo regno, Montezuma si era distinto per coraggio, saggezza e religiosità, nonché per la fermezza con cui reggeva l'impero. Ma con gli spagnoli si era mostrato debole e sottomesso, e i nobili non l'avevano capito. Per strada la gente si domandava se avesse perso il lume della ragione, se la capitale fosse rimasta senza capo, senza nessuno che la governasse. E ben presto era nato un movimento di resistenza capeggiato dai signori Cacama di Texcoco, Cuitláhuac di Iztapalapa e Cuauhtémoc, figlio di Ahuizotl. Stando così le cose, era prevedibile che Pedro d'Alvarado, per paura di un'insurrezione che non avrebbe potuto reprimere con i pochi uomini che il capitano gli aveva lasciato, avesse deciso di approfittare della festa religiosa per eliminare i guerrieri più forti e i nobili più in vista. E invece era stata proprio quella carneficina a scatenare la tanto temuta insurrezione. Cortés chiese dunque a Montezuma di parlare al suo popolo dalla terrazza del palazzo imperiale per cercare di calmarlo, ma il sovrano non fu accolto benevolmente dalla popolazione infuriata. Esaltati, gli abitanti di Tenochtitlan lo coprirono di insulti e gli tirarono dei sassi. Montezuma fu colpito 3 volte. Più tardi gli spagnoli dissero che era morto per le conseguenze dei colpi ricevuti. Secondo alcuni testimoni indigeni, invece, erano stati gli spagnoli stessi ad assassinarlo. Malinalli si rifiutò di entrare nel gioco delle spiegazioni incrociate, non disse nemmeno una parola. Lo shock di essere stata l'ultima a guardare l'imperatore negli occhi prima che i servi lo riportassero nei suoi appartamenti privo di conoscenza l'aveva trasportata in un tempo che non era quello degli altri. Si domandava se il suo incubo facesse parte della realtà o non fosse piuttosto la realtà a far parte del suo incubo. E lei dove si trovava? Pur non seguendo da vicino gli avvenimenti, venne a sapere che i Mexica avevano eletto come nuovo imperatore Cuitláhuac, fratello di Montezuma, che subito organizzò i suoi per l'imminente scontro con gli spagnoli. Costretti alla ritirata, gli stranieri cercarono di scappare di Tenochtitlan nottetempo, mentre i suoi abitanti dormivano per portare via con sé l'immenso tesoro che avevano accumulato. Solo allora, quando li vide scappare, Malinalli tornò al presente. Gli abitanti di Tenochtitlan si gettarono subito all'inseguimento. Malinalli vide che una delle loro frecce colpiva il cavallo che era stato il suo primo amico e alleato, quello che l'aveva guardata il giorno del suo battesimo, quello della carneficina di Cholula e della battaglia contro Panfilo de Narváez. Quando lo vide cadere, ferito, il tempo attorno a lei si fermò. I rumori della battaglia rimasero come congelati a mezz'aria. Malinalli non sentiva più niente, tutto ciò che la circondava sparì dal suo campo visivo. Solo il cavallo esisteva e stava morendo. Malinalli provò un dolore profondo, non voleva lasciarlo solo nella sua agonia, non voleva che diventasse cibo per i vermi. Lo abbracciò forte. Nei suoi occhi lesse paura e sofferenza e subito le tornarono in mente gli occhi di Montezuma mentre cadeva a terra colpito dalle sassate della sua gente. C'era della bontà in quegli occhi, della grandezza, della signorilità. Malinalli afferrò la clava che usava per combattere contro i cittadini di Tenochtitlan e gli assestò un colpo mortale. Poi tirò fuori da sotto i vestiti un coltello e fuori di sé cominciò a tagliargli la testa per portarla via e renderle gli onori che meritava. Era talmente concentrata sul lavoro da dimenticare che stava ancora fuggendo insieme agli spagnoli, che la battaglia infuriava attorno a lei e che la sua vita era in pericolo. Quando un Tenochca l'afferrò per i capelli e alzò il braccio per tagliarle la gola, fu Juan Jaramillo a intervenire in suo soccorso. Fece fuoco con l'archibugio e uccise l'aggressore. Poi corse verso Malinalli, che ancora si ostinava a voler tagliare la testa al cavallo, e la trascinò di forza fuori dalla città, dove sedette assieme a lei a piangere sulla disfatta. La ragazza, con sguardo assente, rimase appoggiata alla spalla che Jaramillo le offriva. Quella notte aveva dimostrato molta forza e coraggio. Malinalli lamentava la perdita della testa del cavallo, Cortés quella del suo tesoro. Sconfitto, il capitano spagnolo si rifugiò a Tlaxcala per radunare gli uomini e recuperare le forze. Nel frattempo, un'epidemia di vaiolo nero, trasmessa dagli schiavi cubani che gli spagnoli avevano portato con sé, faceva strage tra la popolazione indigena. Una delle vittime fu il nuovo imperatore Cuitlahuac. A questo punto salì al trono il giovane Cuauhtémoc, il quale decise subito di fare giustiziare i sei figli di Montezuma che avrebbero voluto arrendersi agli spagnoli. Nonostante l'infuriare dell'epidemia, Cuauhtémoc organizzò la difesa della città, ben sapendo che Cortés, appoggiato dai Tlacaltechi, progettava un nuovo attacco. Nel frattempo, Cortés faceva costruire 13 brigantini per assediare Tenochtitlan dai molti laghi che la circondavano. Le sue fila si erano ingrossate grazie a contingenti di guerrieri venuti da Cholula, Huexontigo e Chalco. Secondo i suoi calcoli, poteva contare più di 60.000 uomini. Cuauhtémoc affrontò dunque gli spagnoli, attaccandoli dalle terrazze delle case mentre passavano per strada. Allora Cortés diede ordine di radere al suolo le abitazioni e la distruzione della capitale ebbe inizio. Con un'azione militare, Cortés riuscì a raggiungere il Tempio Maggiore, ma i Mexica attaccarono la sua retroguardia, catturando vivi più di 50 dei suoi uomini. Quella notte, dal loro accampamento, gli spagnoli udirono i canti di vittoria e seppero che i compagni catturati erano stati sacrificati sugli altari del Tempio Maggiore. Cortés strinse dunque d'assedio la città, bloccando gli argini che lo univano alla terraferma, mentre i suoi alleati a bordo di canoe e brigantini controllavano le vie d'acqua. Nel frattempo fece abbattere gli acquedotti di Chapultepec, lasciando Tenochtitlan senza l'acqua. L'idea era quella di costringere la popolazione alla resa con la sete e la fame. Gli abitanti della capitale si asserragliarono a Tlatelolco. Fu nella piazza del mercato, cuore pulsante dell'impero, che i cittadini di Tenochtitlan ricevettero il colpo finale. Col passare del tempo, fame e vaiolo mieterono così tante vittime che alla fine gli spagnoli ebbero ragione della rivolta. Il giorno in cui Tenochtitlan capitolò, più di 40.000 indigeni furono uccisi e impiccati. Dappertutto risuonavano grida e lamenti. Cuauhtémoc cercò di fuggire, ma fu catturato e condotto davanti a Cortés. Quando fu alla presenza del capitano spagnolo, il giovane imperatore disse: Signor Malinche, ormai ho fatto ciò che dovevo per difendere la mia città e i miei vassalli e non posso fare altro. Essendo stato trascinato con la forza e prigioniero alla tua presenza e in tuo potere, prendi dunque il pugnale che hai alla cintura e uccidimi. Ma Cortés non lo uccise, lo prese prigioniero e gli fece bruciare i piedi per costringerlo a confessare dove aveva nascosto l'oro, sia quello che supponeva i Mexica avessero seppellito, sia quello che era andato perduto nella noce triste, quando lui e i suoi avevano dovuto scappare da Tenochtitlan. Partendo per le Hubieras, Cortés portò Cuauhtémoc con sé. Ma poi un Tlatelolco che partecipava alla spedizione lo accusò di tramare contro gli spagnoli e Cortés, dopo averlo fatto battezzare col nome di Ferdinando, lo fece impiccare a una grande ceiba, l'albero sacro dei Maya, in un punto imprecisato del Tabasco. Non tirava un alito di vento, il sole si nascondeva dietro una spessa coltre di nubi grigie e tristi. Sembrava una luna smorta, debilitata, che facesse del suo meglio per restare dov'era tra il fumo delle pire su cui bruciavano i cadaveri. Lo si poteva guardare senza che i suoi raggi danneggiassero la vista. Aveva perduto tutto il suo splendore e con esso la possibilità di nuotare nei canali della valle dell'Anahuac, le cui acque scure e sconvolte erano rosse di sangue. Il giardino zoologico del palazzo di Montezuma era vuoto, deserto, niente più animali esotici. Della bellezza e dell'eleganza che avevano caratterizzato il suo regno non restava più traccia. Sui fornelli delle cucine reali nessuno cucinava più centinaia di piatti diversi per la tavola dell'imperatore. Gli artigiani che fabbricavano i suoi abiti, i suoi gioielli erano morti o scappati. Il silenzio era interrotto soltanto dai gemiti e dai pianti di Chihuahcoatl, Tonantzin, la donna vipera, nostra madre. E le parole di Cuauhtémoc passavano di bocca in bocca in un bisbiglio pauroso. Oggi il nostro sole si nasconde, il nostro sole si cela allo sguardo, lasciandoci al buio. Noi sappiamo che un giorno tornerà a mostrarsi e a illuminarci, ma fin tanto che rimarrà nascosto, laggiù, nel Mictlan, dobbiamo restare uniti e affrontare la lunga notte di questo nostro sole della coscienza, il quinto sole, e lo faremo seppellendo in fondo al cuore tutto ciò che amiamo. Il nostro modo di dialogare e di allevare i figli, il nostro modo di vivere gli uni insieme agli altri, di organizzarci, che è quello di aiutarci a vicenda. Nascondiamo dunque i nostri teocatlini, templi, i nostri kalmekame, scuole di alti studi, i nostri tlacoan, giochi di palla, i nostri telpolcaltin, scuole per i giovani, e i nostri quicacaltin, case del canto. Svuotiamo le strade e chiudiamoci in casa. Da oggi in poi la casa nostra sarà il nostro Teocaltin, il nostro Kalmekame, il nostro Chalcowan, il nostro Telpocaltin e il nostro Quicacaltin. Da oggi in poi e finché non sorgerà il nuovo sole, il padre e la madre saranno il maestro e la guida che condurranno i figli per mano attraverso la vita. Che padre e madre non dimentichino mai di raccontare ai figli cos'è l'Anahuac sotto la protezione del nostro Signore del vicino e dell'insieme, il nostro Signore Ometeolt Omeotelculti, grazie ai costumi e agli insegnamenti che gli antenati avevano trasmesso ai nostri genitori e che questi, con tanto impegno, avevano trasmesso a noi. Che non trascurino di dire ai figli che un giorno il nostro Anahuac tornerà a essere ciò che è sempre stato, perché dopo questa lunga notte sorgerà il sesto sole, che sarà un sole di giustizia. Malinali si domandava cosa poteva aver fatto di male, in cosa aveva sbagliato, perché non le era stato concesso il privilegio di aiutare la sua gente. Come Cortés era stato la risposta alle paure di Montezuma e come l'oro dei Mexica era stato la risposta alle ambizioni di Cortés, le sarebbe piaciuto sapere a quali desideri corrispondeva la distruzione di Tenochtitlan. A quelli dei Tlacaltechi? A quelli degli dèi, a una necessità dell'universo, a un ciclo di vita e di morte. Non lo sapeva. Sapeva solo che lei non aveva saputo salvare proprio niente. Malinalli pensava a sua nonna, a quanto era stata fortunata a non dover assistere alla distruzione del suo mondo e dei suoi dèi. Si sentiva confusa e in colpa. Anche lei in parte era responsabile dell'accaduto. Nel tentativo di giustificarsi si ripeteva che forse ciò che stava morendo sotto i suoi occhi in realtà non sarebbe morto davvero. Anche durante i sacrifici umani, in fondo, a morire sulla pietra del tempio era soltanto il corpo, il guscio, e in cambio si otteneva la liberazione dello spirito. Si diceva che la vita dei sacrificati appartiene agli dèi e a essi ritornano dopo il sacrificio. Che i sacerdoti non distruggono nulla, perché la vita che liberano dalla prigione del corpo segue poi il suo destino nell'alto dei cieli e serve da alimento al sole. La sua pace emotiva dipendeva dal fatto di accettare per veri tutti questi dogmi. Eppure dentro di sé Malinalli era lacerata. Credeva e non credeva, guardandosi attorno, si rendeva conto che tutto parlava di un ciclo eterno di vita e di morte. I fiori muoiono per diventare fertile humus per altri fiori. Pesci, uccelli e piante si nutrono gli uni degli altri. Sì, ma lei era convinta che questa Calcolt fosse venuto sulla terra per dire che gli dèi non si nutrono del sangue dei sacrificati, bensì delle intenzioni e dei pensieri di tutti noi, che i sogni degli uomini sono l'apprendistato degli dèi, che l'apprendistato degli uomini è il pensiero eterno degli dèi e che gli dèi si alimentano della stessa essenza, ossia dell'anima di tutto ciò che hanno creato. Lei non era convinta che quel processo richiedesse la morte fisica, pensava bastasse la parola. Ogni volta che preghiamo, ogni volta che nominiamo gli dèi, noi li alimentiamo, li onoriamo, restituiamo loro la vita che essi ci hanno dato quando siamo venuti al mondo. I guerrieri avevano sempre agito in base alla convinzione che il corpo sia una struttura che imprigiona l'anima. Chiunque controlla un corpo si impadronisce anche dello spirito che vi alberga. Era una delle credenze che si erano ritorte contro i Mexica, i quali durante i primi scontri con gli spagnoli erano rimasti allibiti al vedere che l'obiettivo degli stranieri non era la cattura dei nemici, bensì il loro annientamento. Il gigantesco apparato bellico di Montezuma funzionava in tutt'altro modo. I Mexica credevano che un buon guerriero dovesse catturare i nemici. Se ci riusciva, infatti, diventava come Dio, perché controllando il corpo di un altro uomo ne controllava anche lo spirito. Per questo non uccidevano mai sul campo di battaglia, ma prendevano tanti prigionieri. Con la morte automaticamente lo spirito del nemico era libero e questo era una perdita, non un trionfo. Catturare i nemici e sacrificarli sull'altare era l'unico modo per dare un senso alla morte. Malinalli era d'accordo, ma solo nel senso che la vita si difende lottando per strappare alla morte lo spirito, non il corpo. Solo cancellando l'idea della morte le sembrava di poter comprendere l'eternità, e da quel punto di vista lei non aveva fatto niente di male. Il suo obiettivo era stato quello di salvare lo spirito di questa Calcolt, che per tanto tempo i Mexica avevano tenuto prigioniero realizzando sacrifici umani. Liberarlo dai suoi carcerieri per permettergli di purificarsi e di rinascere tra gli uomini completamente rinnovato. Ma chi era lei per porsi un obiettivo tanto elevato? Davvero poteva arrogarsi il diritto di decidere cosa doveva morire e cosa invece doveva vivere? Almeno dentro di sé Malinalli era sicura di sì, e nel suo cuore sentiva che lo spirito di questa Calcò era più vivo che mai. Gli spagnoli non potevano distruggerlo, dato che non arrivavano nemmeno a percepirne la presenza. Gli spagnoli si erano limitati a mettere a ferro e fuoco tutto ciò che si poteva vedere, toccare. Il resto era intatto. Malinalli ricamava e applicava piume preziose sul mantello che aveva tessuto per suo figlio. Le piume erano quelle che aveva salvato dalla distruzione del palazzo di Montezuma. Il filo di cotone l'aveva trovato per terra, laddove un tempo c'era il mercato di Tlatelolco. Petruzze di giada e conchiglie marine gliele aveva regalate Cortés perché per lui non valevano niente. Era un mantello principesco. Malinalli voleva che suo figlio sembrasse un principe nel giorno del suo battesimo. Era nato una settimana prima nella casa di Coyoacán, dove viveva insieme a Cortés. L'aveva partorito come sua madre aveva partorito lei, accocciata, ma non aveva potuto avere il bagno nel temascal, nella levatrice, nella cerimonia dell'interramento del cordone ombelicale su un campo di battaglia affinché suo figlio diventasse un valoroso guerriero. Quest'ultima cosa non le era dispiaciuta, ma Malinalli non voleva che suo figlio uccidesse, era stanca di morti. Anche gli occhi di Cortés erano stanchi di vedere tanta morte, tanti corpi mutilati, tanta distruzione. Le sue mani erano stanche di brandire la spada, di tagliare, di separare. Per questo, qualche mese prima, si erano ritirati a Coyoacán in cerca di riposo. Ne avevano entrambi un estremo bisogno. Ma Cortés non era uomo da riposare in eterno. Se non lo riempiva di piani d'attacco e di difesa, sentiva che il tempo gli sfuggiva tra le dita. Ma soprattutto, non appena aveva il tempo di riflettere su di sé, lo assalivano i sensi di colpa. Non era sicuro di aver fatto la cosa giusta distruggendo tante piramidi e bruciando tanti codici. Si giustificava dicendo che non c'erano alternative e che tutto ciò che aveva fatto era assolutamente necessario per difendere la vita, ma a volte si domandava a che pro. Ora aveva l'occasione di creare tutto da capo. Ma che cosa? Poteva disegnare i piani di una nuova città, distribuire terre e approvare leggi, ma in fondo al cuore, molto in fondo, sapeva che la vita rimane un mistero, un qualcosa che non appartiene a nessuno. Lui poteva distruggerla, ma non crearla. Proprio lì stava la differenza. In altre parole, lui non era un dio. Improvvisamente era stato preso dal desiderio di creare una nuova vita ed era andato a cercare Malinalli per farlo insieme a lei. Scoprendo di essere incinta, Malinalli si era sentita piena, felice. Nel suo ventre batteva il cuore di un essere destinato a unire due mondi, a fondere il sangue di Mori e cristiani con quello degli indigeni, una razza pura che ancora non si era mescolata con nessuno. Durante la gravidanza, quando ancora non sapeva se avrebbe dato alla luce un bambino o una bambina, aveva tessuto moltissime tele di malinalli sul suo telaio. L'erba intrecciata preparava l'ordito per un tessuto d'erba intrecciata. Voleva avvolgere e riscaldare il suo bambino con tutta se stessa. L'avrebbe coperto come la pula copre il seme, riproducendo ciò che accadeva nel suo ventre. Malinalli sapeva che così come ogni pianta rispetta il ciclo di semina, nascita, germinazione, fioritura e morte, sempre andando dal buio verso la luce, anche dentro di lei stava germogliando un seme che presto avrebbe visto la luce. Per poter germinare, il seme di una pianta deve liberarsi della pelle che lo ricopre. Forse per questo, dopo aver sacrificato i prigionieri, i sacerdoti li disossavano e ne indossavano la pelle. Anche il seme perde tutto per guadagnare tutto, perde il guscio, la pula, per trasformarsi in una pianta che è tutto, terra, acqua, sole e vento. Ma quando il bambino fosse uscito dal suo ventre, lei voleva continuare a coprirlo e a proteggerlo e per questo tesseva tele di malinalli. Dopo il parto, Cortés aveva festeggiato per 3 giorni, era il suo primo figlio ed era un maschio. Adesso sì che qualcuno avrebbe perpetuato il suo nome ed ereditato le sue sostanze, ma un pensiero opprimente faceva ombra alla sua felicità. Quel bambino era nato fuori dal matrimonio e per giunta da una schiava. Suo figlio non sarebbe stato bene accetto alla corte di Spagna perché era un meticcio. A complicare ulteriormente le cose, dal Messico era arrivata sua moglie, Catalina Suarez, che fin dal primo giorno aveva fatto del suo meglio per rovinare quel poco di gioia che ancora poteva provare. Catalina, che non aveva figli, era terribilmente gelosa di Malinalli e del suo bambino. Per farle piacere, Cortés organizzò una grande festa di benvenute e per tutta la sera Catalina non fece che inseguirlo, ma non per il piacere di stare in sua compagnia, bensì per tormentarlo con discussioni infinite. Il malumore dei padroni di casa non fece che peggiorare per tutta la durata della festa, finché gli invitati non decisero che era venuto il momento di andare a casa. Dopodiché, Cortés e Catalina continuarono a litigare in camera da letto. Il giorno dopo, mentre allattava il figlioletto, Malinalli venne a sapere che Catalina era morta. L'aveva trovata una delle sue domestiche personali, indossava ancora i vestiti della festa, aveva grossi lividi attorno al collo, la sua collana di pelle era strappata e il letto era zuppo di piscio. Correva voce che fosse stata assassinata. Malinalli fu colpita soprattutto dall'immagine della collana strappata. Qualcuno aveva staccato Catalina dalla collana della creazione. La notte, infinita e trapunta di stelle, osservava Cortés e Malinalli, seduti accanto al fuoco tra i soldati che mangiavano in silenzio. Nell'accampamento brillavano numerosi falò che sembravano riflettere le stelle. Malinalli osservava Cortés, che guardava ora a destra, ora a sinistra, ora il cielo, ora il fuoco, ora la terra. Qualche giorno prima, vedendolo lucidare l'armatura e affilare la spada, si era sentita gelare da un vento d'ossidiana. E lo conosceva bene il padre di suo figlio perché il suo sangue si era ricreato dentro alle sue viscere e sembrava di conoscerlo da sempre. Le era talmente familiare e vicino che ormai lo accettava come parte del suo destino, quasi fosse nato solo per penetrarla, per ascoltare le sue parole, per ferirle il cuore. Osservando il suo sguardo irrequieto, Malinalli capiva che gli occhi di Cortés nascondevano un'insoddisfazione perenne, una delusione costante, come se solo la conquista fosse in grado di dargli soddisfazione e piacere. Non i risultati raggiunti, non le vittorie riportate, non il potere grandissimo che già esercitava. Quest'uomo insaziabile, pensò, l'unica cosa capace di risvegliarlo alla vita sembra essere la morte. Gode solo del sangue, del desiderio di distruggere, di rompere, di lacerare, di trasformare. Ne fu dispiaciuto per lui. Per la prima volta provò compassione per quell'uomo ossessionato e terribile. Stavano marciando alla conquista delle Ubiera se Malinalli pensò che se fosse riuscito nell'impresa, il suo desiderio di conquista sarebbe cresciuto ulteriormente e lui avrebbe voluto conquistare ancora di più, sempre di più. Quell'uomo era destinato a non trovare mai quiete. Che castigo spaventoso, concluse tra sé. E questo è il padre di mio figlio. Durante la marcia verso le Ubiera, spassarono dal villaggio in cui era nata Malinalli. Posare ancora una volta i piedi su quel suolo che tante volte l'aveva vista giocare con la nonna, rivedere i luoghi in cui aveva conosciuto l'amore assoluto, fu per lei una strana esperienza. Ogni cosa le sembrava più piccola, gli oggetti che erano sembrati enormi ai suoi occhi da bambina, eccoli lì ridotti alle loro vere dimensioni. Molte volte aveva pensato a quel ritorno senza mai realizzarlo. Era stata la nuova impresa di Cortés a permetterle di tornare sui suoi passi di allora. Ancora prima di arrivare al villaggio, il cuore di Malinalli era in subbuglio, incendiato di battiti. Il sangue le saliva agli occhi, che parlavano dell'innocenza gradita di una bambina e dell'odio insaziabile di chi per anni conserva in fondo al cuore un dolore, un'angoscia assopita, una tristezza rimossa. Mille ricordi si risvegliarono precipitosamente dentro di lei, man mano che si avvicinavano al luogo in cui era stata abbandonata da sua madre. Tutto il dolore che aveva provato da bambina le affiorava da ogni poro della pelle. Il destino è preciso. Ciò che è scritto nelle stelle si compie sempre. Queste le parole che le tornarono alla mente nel momento in cui rivide sua madre. Finalmente aveva davanti agli occhi il fantasma che tante volte l'aveva ossessionata, comparendo in mille forme e aspetti diversi. Ecco la grande figura di sua madre, un tempo forte, potente e ora agonizzante, marcia, finita, triste, con una maschera d'umiltà sulla faccia. Accanto a lei c'era suo fratello. Si riconobbe subito nello specchio di quegli occhi, riconobbe la sensibilità, il mondo interiore di un uomo che rappresentava qualcosa a cui aveva anelato da tempo immemorabile. Suo fratello era identico a lei, uguale il viso, i battiti del cuore, la respirazione. Era come guardare se stessa trasformata in uomo. Non appena la vide, lui le sorrise. Il cuore di Malinalli batteva rapido, assordante. I suoi occhi stavano per sciogliersi in lacrime. Era la stessa emozione che aveva provato la prima volta che si era innamorata. Avrebbe voluto baciarlo, abbracciarlo, accarezzarlo, ma si contenne e si limitò a rispondere al suo sorriso. Poi quell'universo di percezioni, di dialoghi silenziosi, di sguardi e di gesti fu spezzato dalla voce di sua madre. Figlia mia, che bello rivederti, disse, e tese la mano verso di lei per toccarla, per sfiorarle il viso. Malinalli si sottrasse dicendo: Io non sono tua figlia e non ti considero mia madre. Né una carezza, né una parola affettuosa, né un gesto di bontà, né un mondo di protezione mi sono venuti da te quando con crudeltà esatta e puntuale tu mi hai regalata. Quel giorno hai voluto fare di me una schiava, togliendomi per sempre la libertà del cuore e dell'immaginazione. A questo punto, la madre di Malinalli non resistette più, i suoi occhi versarono un fiume di lacrime e le sue labbra secche pronunciarono parole tali da commuovere anche i sassi e i cuori più duri. Figlia mia, Malinalli, per tutta l'estensione dei mari, per il potere delle stelle, per la pioggia che tutto lava e rinnova, ti supplico di perdonarmi. Fui guidata dal desiderio, accecata dalla vita, attirata da ciò che respira. Non potevo restare sposata alla morte, tuo padre era morto, inerte, la sua lingua non pronunciava più parole, non c'era luce nei suoi occhi. Non volevo restare legata alla sua immobilità, ero giovane, volevo vivere e sentire. Perdonami, io non sapevo quanto potesse soffrire il tuo cuore di bambina. Pensai che essendo tanto piccola ti saresti dimenticata presto di me e non avresti mai saputo che ti avevo regalata. Pensai che la nonna ti aveva resa forte, aprendoti gli occhi e donando sguardo al tuo cuore e al tuo pensiero. Rinunciai a te per essere io. Perdonami. Commossa, con il cuore in subbuglio, Malinalli avrebbe voluto abbracciarla e lenire le sue ferite, ma si trattenne. Il rancore e il dolore che ancora provava per l'abbandono subito furono più forti delle suppliche di sua madre. Trattenendo l'emozione per fingersi più crudele di quel che era, Malinalli le rispose dunque con una freddezza tagliente come il ghiaccio. Non ho nulla da perdonarti, non posso perdonare ciò che ha reso il mio destino tanto migliore del tuo. Tu mi regalasti, ma la sorte in cambio mi regalò potere e ricchezza. Sono la donna dell'uomo più importante di tutti, l'uomo del nuovo mondo. Tu sei rimasta in quel vecchio, nella polvere, in un mondo che ormai non esiste più. Io invece sono la città nuova, la nuova fede, la nuova cultura. Il mondo in cui ti trovi ora l'ho inventato io. Non preoccuparti, nei miei codici tu non esisti nemmeno, ti ho cancellata molto tempo fa. La madre supplicò di nuovo. È un piccolo castigo quello che tu ora mi infliggi. Il mio abbandono è stato ancora più violento delle tue parole, lo so. Ma per il tempo in cui siamo state una sola volta, per il tempo in cui hai respirato nel mio ventre, per il tempo in cui i miei occhi sono stati i tuoi occhi e le mie mani il tuo tatto, oso supplicarti di avere pietà di noi, di non scatenarci contro la violenza, di salvarci la vita, di regalarci la nostra vita, signora del nuovo mondo. La tua paura mi stupisce. Certo, non ignori che morire non significa finire, bensì continuare, evolversi. Guarda me. Sono sopravvissuta alla morte che tu mi avevi scelto. E voglio dirti una cosa. Tu non abbandonasti me, abbandonasti piuttosto te stessa. Tu stessa hai inventato i castighi che ora ti fanno soffrire. Tu stessa hai costruito la prigione in cui sei costretta a vivere. Ma ora calmati, rasserenati. Ogni rancore io l'ho cancellato dalla mente nel momento stesso in cui ti ho rivista. Non desidero farti alcun male, vivi in pace. Non farò niente né a te né a mio fratello. Dimenticherò tutto e il mio risentimento sarà cancellato per sempre. Belle furiosa, Malinalli distolse lo sguardo da sua madre e lo rivolse di nuovo a suo fratello. Subito i suoi tratti si addolcirono e i suoi occhi, colmi di tenerezza, baciarono ancora una volta il volto di quel fratello perduto. Gli sorrise per l'ultima volta e se ne andò.